Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Tutti hanno un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare, diceva il grande Jim Morrison. Certo, sognare fa la differenza. Impegnarsi in qualcosa in cui si crede sopra ogni altra e sognarla ad occhi aperti, quasi con lo spirito invincibile di un bambino. Ed è proprio questo quello che faremo oggi, ai magnifici destini. Vogliamo inseguire la traccia di un sogno apparentemente irraggiungibile, quello che sta facendo una bambina di non più di 5 anni, destinata a diventare una delle più grandi star dei nostri tempi. È nel salotto di casa sua, a Houston. La mamma sta cucendo un abito, è una stilista e parrucchiera. Il papà è un commerciante di apparecchiature mediche, ma ora si sta riposando, guarda la tele. La nostra bambina sta giocando con la sorellina. Più che un salotto sembra una sala giochi. La casa dove ci troviamo è molto bella. Si vede che le persone che vi abitano sono benestanti. Non manca niente, compresa una bella armonia familiare. La sera prima tutta la famiglia è stata a un concerto di Michael Jackson. Improvvisamente la nostra bambina smette di giocare, stringe la piccola mano intorno a un microfono immaginario e inizia a cantare una canzone di Michael. La ricorda alla perfezione e la canta in maniera incredibile. I genitori rimangono allibiti. È questa la prima performance, la più lontana nel tempo, di una delle più grandi interpreti di oggi, la favolosa Beyoncé Knowles. Come penso che sia successo a tanti miei colleghi, Michael Jackson mi fece entrare nel mondo magico della musica. Provai a cantare e ci riuscii bene. Da allora non ho mai smesso. Una voce straordinaria, una potenza espressiva unica, presenza scenica e bellezza sensuale, una volontà di ferro e una determinazione senza limiti. Beyoncé possiede talmente tante doti che sembra impossibile si trovino tutte concentrate nella stessa persona. Eppure è così, è fin da piccolissima, come abbiamo visto. Il suo sogno è cantare, cantare e ancora cantare. Eppure è strano, perché in realtà è una bambina molto timida, come racconta la sorella Solange. Beyoncé era così timida. Stava sempre per conto suo. Non credo che abbia mai avuto un'amica da piccolina. Sarà anche timida Beyoncé, ma quando canta le passa tutto. Una sua insegnante si accorge delle sue incredibili doti e la iscrive a un concorso canoro, il Sammy Davis Junior Award. Ha solo 7 anni. Prima di iniziare a cantare se ne sta per conto suo. Se i genitori o l'insegnante le chiedono qualcosa, quasi non risponde. Sarà difficile crederlo, ma lei è concentrata. Non è un semplice concorso di bambini, è la sua vita. Ogni volta salita su un palco con il microfono in mano, avviene una vera e propria metamorfosi. È incredibile vedere quella ragazzina così timida trasformarsi in un animale da palcoscenico. Per lei non c'è niente di strano, si trova perfettamente a suo agio. Sono gli altri, quelli che la conoscono bene, che rimangono strabiliati. Suo padre se lo ricorda ancora. Salì sul palco ed era una Beyoncé diversa. Guardai Tina e Tina guardò me. Dissi, ma quella è Beyoncé? Non ci posso credere. Beyoncé vince il concorso sbaragliando qualsiasi avversario. The winner is Beyoncé Knowles, female pop vocalist. Vorrei ringraziare i giudici per avermi scelta, i miei genitori per il loro amore. Ti amo, Houston. Un comportamento da diva consumata. Beyoncé è felicissima perché ha capito quale sarà la sua vita. Dietro quella sua timidezza si nasconde una determinazione ferrea e lei ha già deciso. Da questo momento ogni concorso canoro è suo. I genitori non possono che assecondarla, è troppo brava, troppo dotata. Eppure qualcosa le manca, come racconta sua madre, Tina. Beyoncé era davvero solitaria, un po' troppo. Io pregavo sempre che trovasse un'amica. La vita di Beyoncé sta per cambiare radicalmente. Sembra impossibile dire questo di una bambina di appena 8 anni, eppure è proprio così. Non è difficile comprendere quello che avviene dentro di lei. Sa perfettamente quello che vuole, i suoi genitori la assecondano, non ha praticamente ostacoli di fronte. Ma mentre sul palcoscenico è quasi spavalda, riesce a fare uscire quella tigre che è dentro di lei, nella vita di tutti i giorni è pur sempre una bambina di 8 anni con le sue paure e i suoi desideri. Beyoncé si sente sola, non ha un'amica del cuore, qualcuno che non sia la mamma o il papà o la sorellina a cui confidare i suoi segreti, con cui condividere i sogni. Ma poi viene chiamata a fare un'audizione. Il produttore musicale Alonso Jackson sta pensando di formare un gruppo rap di bambine. È in questa occasione che Beyoncé fa il primo incontro decisivo della sua vita, il magnifico destino che influenzerà le sue scelte musicali e la accompagnerà sulla via del successo. Kelly Rowland, una bambina di 8 anni, proprio come lei. I met Beyoncé when I tried out for the group. Ho incontrato Beyoncé ad un'audizione per entrare a far parte di un gruppo. La prima volta che la vidi era veramente una bellezza e aveva qualcosa in più degli altri. Poi la sentii cantare e dissi: wow! Wow! La mia voce era... e la sua era... era molto modesta e timida. Del genere: vuoi diventare mia amica? Diventammo subito amiche del cuore. Mangiavamo, respiravamo e dormivamo nella musica e nel canto. Beyoncé è finalmente serena. Ha trovato qualcuno con cui condividere il suo sogno. Alonso Jackson sceglie sia lei sia Kelly, rendendo le due ragazzine ancora più felici. Insieme sono una coppia imbattibile. Per affiatarsi bene, il gruppo, che prende il nome di Girls' Time e di cui fanno inizialmente parte anche Latavia Robertson, Tamara Davis e Nicki e Nina Taylor, si incontra tutti i giorni allenandosi in maniera maniacale. Kelly va addirittura a vivere a casa di Beyoncé. Le due amiche ora abitano insieme, studiano, guardano la televisione, ma soprattutto cantano e ballano. Presto arriva una notizia elettrizzante. Il loro manager, Alonso Jackson, le ha iscritte al più importante talent show di quegli anni, Star Search, che lancia personaggi del calibro di Alanis Morissette, Christina Aguilera, Britney Spears. Le ragazze lavorano sodo senza mai fermarsi un giorno, dimostrando una perseveranza incredibile per la loro età. Beyoncé e Kelly sono convinte di vincere. Lo studio di Star Search è pieno di persone. C'è una forte elettricità nell'aria e le Girls' Time sono solo delle bambine. Ma nonostante questo riescono a cantare bene e arrivano alla finalissima. Brave e molto preparate, le Girls' Time sono super favorite e invece arrivano solo seconde. Oggi Beyoncé ricorda l'avvenimento con molta dolcezza, mentre Kelly sembra più toccata. Perdemmo e a riguardare il video i nostri visi erano così belli. Corremmo subito dietro le quinte a piangere. Fu come se il mondo ci fosse crollato addosso. Matthew e Tina Knowles vedono la figlia e le sue amiche davvero affrante. Conoscono il valore delle ragazze, le hanno viste prepararsi, impegnarsi al massimo. Prendono allora una decisione che forse non tutti i genitori riterrebbero quella giusta, trattandosi di adolescenti. Lasciano i rispettivi lavori per dedicarsi completamente a loro e diventarne i manager. Sotto la guida di Matthew Knowles, le Girls' Time si riducono a quattro: Beyoncé, Kelly, Latavia e la new entry LaToya Luckett. Le ragazze provano senza sosta, alternano sessioni di canto nel salone di coiffure di mammatina a lezioni di danza e coreografia nel retro del giardino di casa Knowles. Era come essere a militare. Sveglia, colazione, canto e allenamento. Pranzo, allenamento e canto. Tutti i giorni. Non ci riposavamo mai. Un giorno, siamo nel 1993 e Beyoncé ha solo 12 anni, la futura star sta seriamente pensando di cambiare il nome del gruppo. Ci sta riflettendo da un po'. Le pare che Girls' Time non sia poi tanto bello. Lei cerca un nome più creativo. apre a caso la Bibbia, in particolare il libro di Isaia. La parola destiny, destino, le pare luminosa come fosse evidenziata. Lo racconta subito al padre, che aggiunge la parola child, bambino. Sono parole bellissime, hanno un suono magico e Beyoncé decide, il gruppo si chiamerà proprio così, le Destiny's Child. Un nome che porta a loro fortuna. Dopo alcuni anni di concerti ed eventi locali, anni anche difficili per l'incertezza economica della famiglia Knowles, nel 1997 le Destiny's Child firmano il loro primo contratto con la Columbia Records e registrano il loro singolo di debutto, Killing Time, che diventa la colonna sonora del film Men in Black con Will Smith. Le quattro amiche sono lanciatissime. La fortuna sembra aver girato dalla loro parte. La Columbia decide di investire su di loro. Il primo album, intitolato semplicemente Destiny's Child, vede la luce dopo pochi mesi e la loro prima hit, No No No, si posiziona subito al primo posto delle classifiche, diventando anche un disco di platino. Le Destiny's Child sono una realtà oramai. Sono ragazze in gamba, lavoratrici instancabili, anche se sono delle adolescenti si impegnano fino in fondo e questo successo se lo meritano. Matthew Knowles sa che l'onda positiva va cavalcata. Per questo insiste perché la Columbia esca con un nuovo album. Nel 1999 le Destiny's Child presentano la loro seconda fatica, The Writings on the Wall, album anticipato dal singolo Bills, Bills, Bills. At first we started out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you asked to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. Il pubblico impazzisce. Improvvisamente tutti vogliono le Destiny's Child. Ovunque vadano, vengono acclamate da una folla di ragazzi e ragazze che vogliono vederle, conoscerle, toccarle, avere un autografo. La vita è davvero cambiata per Beyoncé, Kelly, Latavia e Latoya. Si potrebbe pensare che il mondo sia tutto rose e fiori per queste quattro ragazzine che in pochi anni riescono a scalare le classifiche e a posizionarsi come uno dei gruppi emergenti più interessanti del panorama discografico americano. In realtà, non è così. Ci siamo sempre considerate delle sorelle. Non soltanto io e Beyoncé, che vivevamo insieme. Sì, la mia famiglia erano mia madre, Matthew, Tina e Solange, ma anche le altre due ragazze. Per me era così, non avevo dubbi. Ma per Latavia Robertson e Latoya Luckett non è così. Le due ragazze accusano Matthew Knowles di favorire sempre Beyoncé e Kelly e chiedono che lasci il suo incarico di manager. Per Beyoncé è un colpo tremendo. È il dicembre del 1999. Sta leggendo la lettera che i legali delle due ragazze hanno appena consegnato al padre e non riesce a credere ai suoi occhi. Fu devastante. Posso solo dire che quello fu il peggior Natale della mia vita. Una cosa orribile, bruttissima, incredibile. Eravamo un gruppo di successo con un futuro meraviglioso davanti e all'improvviso era tutto finito. Ci conoscevamo da quando eravamo piccole e quello non voleva dire perdere delle partner di lavoro. Significava perdere due amiche, due migliori amiche. Ancora oggi ci penso, le sogno. Spesso mi mancano. Beyoncé e Kelly sono affrante. Passano le loro giornate sul divano di casa loro, tristissime. Non le scuote da quel torpore nemmeno una notizia che in tempi normali le avrebbe addirittura elettrizzate. Sono candidate a ben due Grammy Award. È il padre Matthew che prende in mano la situazione. Lo fa sia come padre che come manager. Il gruppo va ricostruito. Così, dopo l'uscita di Latavia e Latoya, i Knowles si mettono alla ricerca di due nuove ragazze per riformare al più presto le Destiny's Child. E come spesso succede, la ventata di novità costituita da Michelle Williams e Farrah Franklin è positiva. Beyoncé crede troppo nel suo gruppo. Lei, Kelly e tutta la sua famiglia hanno lottato duramente per raggiungere il successo. Non può finire tutto lì. Un rinnovato entusiasmo porta il gruppo a un nuovo clamoroso successo. Il singolo Say My Name. Say my name, say my name. No one is around you. Say baby I love you. You ain't running game. Say my name. the sudden change. Say my name, if no one is around you. Say, baby, I love you. If you ain't running games, say my name, you acting kinda shady. Il successo è grandissimo. Le ragazze vincono addirittura 2 Grammy Award, un riconoscimento che le incorona regine dello Star System. Ma dopo soli 5 mesi le attende un altro duro colpo. Farrah Franklin lascia il gruppo. Beyoncé, Kelly e Michelle sono allibite. Succede di nuovo. La stampa si scaglia contro Beyoncé, ma allora è lei che fa scappare tutte le sue colleghe. La cantante risponde come sa fare lei con una canzone. Ma ero arrabbiatissima. Ero una donna. Anche se ero giovanissima, mi mantenevo da sola. Avevo una mia carriera e non accettavo che mi trattassero così, che dicessero tutte quelle bugie. Mi chiusi in studio e scrissi Independent Women. Il nuovo pezzo le viene chiesto per la colonna sonora del film Charlie's Angels. Le protagoniste sono 3 e questa coincidenza è una vera fonte di ispirazione per Beyoncé. Le Charlie erano 3, anche noi eravamo 3. Facemmo il video ed era semplicemente perfetto. Pensammo che non dovevamo cercare un rimpiazzo per far. Eravamo a posto così. Independent Women diventa una hit non solo negli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, conquistando il mercato europeo. Ha talmente successo che Beyoncé riceve una nomination ai Grammy Award del 2001 come autrice e le Destiny's Child vengono invitate a cantarla alla serata di gala. Le ragazze sono agitatissime, hanno una sfilza di nomination anche per Say My Name, ma non si aspettano di certo una vittoria. Quando chiamarono il nostro nome e dissero Say My Name, ci guardammo incredule. Eravamo sconvolte. Abbiamo un Grammy. Sapevamo che c'erano ancora voci sulle persone che erano andate via. E capire che avevamo il nostro pubblico con noi, non pensai più a niente. Solo al Grammy che risplendeva nella nostra casa. Ai magnifici destini di oggi vi stiamo raccontando l'incredibile ascesa di una bambina con un grande sogno, Beyoncé Knowles. La ragazzina incontra da piccolissima una sua coetanea, Kelly Rowland, il primo magnifico destino della sua vita. È con lei che a soli 15 anni crea le Destiny's Child, nella cui formazione si avvicendano diverse altre cantanti. Nonostante il successo di Independent Women e i Grammy Award per Say My Name, Beyoncé e Kelly sanno che sono in molti a pensare che le Destiny's Child abbiano qualche problemino al loro interno. Hanno perso ben 3 componenti in pochi mesi, ma di certo non si aspettano quello che sta succedendo alla radio durante un noto programma musicale. Un DJ paragona la band al reality show Survivor, famosissimo negli States, e si chiede chi sarà la prossima ragazza ad essere sbattuta fuori dal gruppo. Addirittura lancia un sondaggio tra il pubblico. Fu così che mi venne in mente di scrivere Survivor, una canzone che parla di sopravvissuti. Non è una canzone contro qualcuno in particolare, è un ringraziamento per essere stata benedetta dall'alto ed essere riuscita a sopravvivere nonostante le difficoltà. È una canzone sulla capacità di perdonare. Evidentemente è un concetto universale perché le persone dimostrarono subito di avere capito e l'amarono all'istante. Con Survivor, le Destiny's Child vincono il loro 3° Grammy Award e diventano senza ombra di dubbio il primo gruppo femminile pop del mondo. Il critico musicale di MTV, Carson Daly, le paragona a una delle girl band più acclamate di tutti i tempi. Penso che si possano definire le Supremes della nostra generazione. Sono incredibilmente intelligenti, le lavoratrici più determinate che io abbia mai visto. Hanno talento, sono belle, insomma, hanno proprio tutto. The Supremes, gruppo vocale femminile statunitense, famosissimo negli anni 60, non a caso torna in mente al critico musicale Carson Daly. 4 ragazzine di 15 anni che si incontrano a una gara canora formano un gruppo e diventano talmente famose che i media del tempo ne parlano come delle rivali dei Beatles. Essere un gruppo di ragazzine che si conoscono a un concorso canoro, lavorare sodo e diventare famosissime, non sono le uniche analogie fra le Supremes e le Destiny's Child. Incredibile appare la similitudine fra le leader dei due gruppi, Beyoncé e la grandissima Diana Ross. Negli anni 60, la figura di Diana Ross spicca talmente all'interno del suo gruppo che addirittura la formazione cambia il nome in Diana Ross and the Supremes. Ma nonostante questo, la sua personalità prorompente si sente evidentemente ingabbiata all'interno di un gruppo. E nel 1970 Diana Ross lascia The Supremes per intraprendere la carriera da solista. Attualmente ancora in attività, Diana Ross è sicuramente una delle cantanti di maggiore successo al mondo. Ha ricevuto i premi più prestigiosi e ha venduto milioni di dischi che l'hanno resa una delle interpreti più famose della storia musicale di tutti i tempi. La sua carriera all'interno delle Supremes e quella da solista ispirano addirittura un musical che debutta a Broadway nel 1981 dal titolo Dream Girls. Nel 2001, dopo il grandioso successo di Survivor e la consacrazione a stelle internazionali, le Destiny's Child rendono pubblica la loro intenzione di fermarsi per un po'. È proprio Beyoncé che fa una dichiarazione ufficiale. Beh, ciascuna di noi sta valutando delle proposte per realizzare un disco come solista. Accetteremo solo progetti che si riferiscano ad ambiti musicali differenti e ci supporteremo a vicenda. È una scelta che facciamo in piena armonia, perché tutte e tre sentiamo di poter dare qualcosa, anche separatamente. Di fronte a questo comunicato, in molti iniziano a guardare a Beyoncé come alla nuova Diana Ross. La sua personalità emerge all'interno del gruppo da sempre, fin da quando aveva solo 9 anni. E lei, intervistata dalla giornalista Katie Couric, non smentisce affatto. È Diana Ross, il secondo mitico destino che la vita mette sulla strada di Beyoncé. Ti stanno descrivendo tutti come la futura Diana Ross. Beh, io cercherò di essere all'altezza di questo confronto. Lei è sempre stata il mio mito. Voglio cantare, ballare, recitare come lei. Io sono nata per fare questo. Il commento di Diana Ross non tarda ad arrivare. Ho una grandissima ammirazione per Beyoncé. L'ho incontrata, era con la madre. È bellissima, bellissima. E credo proprio che abbia delle buone basi. Se vi dico che ha le gambe ed è destinata a durare, credetemi. Perché lei ha tutto quello che serve. Non solo le capacità, ma i mentori, un background e 2 ottimi genitori. Beyoncé riflette sul suo futuro. Quello che ha vissuto 30 anni prima la grandiosa Diana Ross potrebbe ripetersi anche con lei. Basta continuare a credere nel suo sogno, quello che fin da piccolissima l'ha sempre accompagnata portandola fin lì. Il primo disco da solista arriva nel 2002 insieme alla sua prima prova come attrice. Il film è Austin Powers in Goldmember e la canzone, parte della colonna sonora, è Work It Out. Beyoncé è ormai lanciata anche come solista, oltre che come attrice. Il suo album di esordio vero e proprio è Dangerously in Love, del 2003. Pericolosamente innamorata. Che ci sia un messaggio nascosto in questo titolo. Beyoncé è molto riservata sulla sua vita privata, ma in effetti da un po' di tempo la si vede spesso con Jay-Z, ricchissimo e famosissimo cantante rap, nonché imprenditore e produttore musicale con il quale duetta quando è ancora con le Destiny's Child. Innamorato o no, Beyoncé si aggiudica la bellezza di 5 Grammy Award nel 2004 per il suo album di esordio. Un record che pochissimi altri artisti possono vantare. Anche se ha preso già tantissimi premi, questa sera Beyoncé è davvero emozionata e felice. Wow, this is unbelievable. Beh, è assolutamente incredibile. Questo è il mio primo disco da solista. Non pensavo che avrei vinto. È il mio sogno che si avvera. Ringrazio tutti, anche Kelly e Michelle, le mie Destiny's Child, e soprattutto i miei genitori. Che la carriera di Beyoncé possa essere paragonata a quella della grande Diana Ross non è una trovata pubblicitaria, non una forzatura dei critici musicali, ma un profondo intendimento della giovane cantante, che lei decide di rendere più evidente. La ex Destiny's Child dedica un tributo speciale a colei che tanto significa per la sua carriera, interpretando la parte che fu di Diana Ross nel musical Dreamgirls, in un film con Eddie Murphy che esce nel 2005 con lo stesso titolo. In questa pellicola Beyoncé interpreta una delle sue canzoni più belle ed apprezzate. Listen. Alla presentazione del film Diana Ross è in prima fila per applaudire Beyoncé. Sto incrociando le dita che vada tutto bene e il film piaccia. Beh, c'è la bravissima Beyoncé, ci sono tutti i bravi cantanti, non potrà che essere molto bello. Effettivamente il film è un grandissimo successo. Alcuni giorni dopo la serata di presentazione, Beyoncé racconta un episodio accaduto prima dell'inizio delle riprese. Non capivo perché le persone mi paragonassero a Diana Ross. Poi l'ho studiata attentamente. La sua grazia, il suo modo incredibile di cantare. E ne sono stata lusingata. La amo e la rispetto così tanto e da così tanto tempo. Non avrei mai voluto che si arrabbiasse perché avrei interpretato il suo ruolo in Dreamgirls. L'ho incontrata prima dell'inizio delle riprese ad un party. Io ero spaventata, pensavo sarà arrabbiatissima. Invece mi ha abbracciata e baciata. Mi ha detto che era contenta che avrei fatto il film e di chiamarla pure se avevo bisogno di qualcosa. Diana Ross... è la mia ispiratrice. Beyoncé Knowles, splendida artista, cantante di grandissimo successo, ma anche attrice, autrice e produttrice. È a lei che è dedicata la puntata di oggi dei Magnifici Destini, alla sua strabiliante carriera, che la vede tra gli artisti ad aver ricevuto il maggior numero di riconoscimenti, compresi ben 16 Grammy Award, e ad aver venduto milioni di dischi in tutto il mondo. La sua vicenda si racconta attraverso i suoi magnifici destini, quegli incontri che la accompagnano verso il suo strabiliante successo. Da Kelly Rowland, con la quale sogna fin da bambina di diventare cantante e fonda le Destiny's Child, alla grandissima Diana Ross, che effettua un percorso a lei parallelo con The Supremes, dalla quale Beyoncé trae ispirazione per proseguire in una carriera da solista. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Beyoncé è finalmente una donna realizzata in tutto. La sua carriera è semplicemente splendida, i suoi dischi sono tutti hit di grande successo, la sua vita privata va a gonfie vele, avendo sposato il rapper e produttore Jay-Z dopo anni di fidanzamento tenuto molto riservato, come è nella sua natura. Cosa può mancare a questa artista completa se non la consacrazione finale che ogni cantante statunitense sogna? È il 18 gennaio del 2009. Il Lincoln Memorial di Washington è affollato di pubblico. Si sta festeggiando l'elezione del primo presidente americano di colore, Barack Obama. Sulla pista di ballo preparata al centro del Memorial arriva la coppia presidenziale, Michelle Obama, splendidamente fasciata da un sognante abito bianco, il presidente, elegantissimo in smoking. Ma poco distante da loro, un altro palco attende qualcuno. È lei. È Beyoncé. I found a thrill to press my cheek. A thrill that I have never known. Oh yeah, when you smile. Considerata la canzone rhythm and blues più famosa al mondo, At Last è il grandissimo successo di Era James che Beyoncé interpreta magistralmente, mentre il presidente e la moglie ballano emozionati. La cantante non può chiedere di più, come dice lei stessa. Un pezzo di storia. Ecco quello che è stato, un'esperienza incredibile, di quelle super che ti fanno pensare che niente potrà mai essere uguale. Io naturalmente ho seguito la campagna elettorale del presidente e ho pensato fin dall'inizio che lui poteva essere il grande cambiamento per tutti, che eravamo pronti per questo. Io e il mondo. E ora ci siamo, è accaduto, è una realtà. Io sono pronta a cantare ancora per loro, quando vorranno, per qualsiasi buona causa. Una performance che porta ancora tanto successo a Beyoncé, che nello stesso anno interpreta la parte proprio di Etta James nel film Cadillac Records. Senza pausa, la giovane cantante continua a sfornare dischi, oltre a diventare produttrice e creatrice di moda, e oltre a prendersi una necessaria pausa nel 2011. Ma un motivo c'è, e anche molto valido. Ciao ciao Baby Blue! Siamo felici di annunciare l'arrivo della nostra bella figlia Blue Ivy Carter, nata sabato 7 gennaio 2012. La sua nascita è stata emozionante ed estremamente tranquilla. Siamo in paradiso. È venuta alla luce naturalmente e in salute col peso di 3 kg e 18 grammi. Ed è stata la migliore esperienza di entrambe le nostre vite. Siamo grati a tutti per le vostre preghiere, i buoni auguri, l'amore e il supporto. The most amazing feeling I feel. Words can't describe what I'm feeling for real. Baby, I paint the sky blue. My greatest creation was you. Un sentimento come non ne ho mai provato uguale. Le parole non possono descriverlo. Tocco il cielo, blu. Lo canta Jay-Z, marito di Beyoncé e padre della piccola. Una bambina decisamente fortunata, la piccola Blue Ivy. Viene da domandarsi chi saranno i suoi miti, se seguirà le orme dei genitori, se penserà che sua madre sia la più incredibile cantante di tutti i tempi. Chissà se sarà d'accordo con una giovanissima ragazzina che afferma la sua totale ammirazione per la cantante. Lei è la donna perfetta. La guardi e non pensi ad altro. Mi domando come sia la sua vita personale. La guardi e pensi: quella donna sul palco è una superstar. Il resto non conta, ti importa soltanto della sua musica. Oh, spero di poter essere come lei un giorno. Chi sta facendo un'affermazione così determinata? Beh, ascoltiamola insieme. È il 23 novembre 2009. In un'intervista rilasciata sul sito Teen Music, la 17enne Miley Cyrus dice «I want to be like Beyoncé. Voglio essere come Beyoncé». Miley Cyrus, alias Hannah Montana, è già una star e lo è da molti anni. È la protagonista della sitcom della Disney Hannah Montana, che riscuote un successo stellare in tutto il mondo. Destiny Hope Cyrus, questo è il suo vero nome, ma viene soprannominata Miley come abbreviazione di Smiley, perché da piccolina sorride sempre. Ha solo 12 anni quando nel 2005 vince il provino alla Disney. Nel 2006 la serie va in onda per la prima volta su Disney Channel, trasformandosi immediatamente in un clamoroso successo. Miley diventa per tutti Hannah Montana. Catapultata da piccolissima e improvvisamente nello Star System, Miley deve studiare, prendere lezioni di canto, recitazione, deve crearsi inevitabilmente dei punti di riferimento. Ma chi ascolta Miley quando si rilassa a casa sua? Che film guarda? Chi la affascina e le pare un modello da seguire? È lei stessa a dirlo in una intervista realizzata da Oprah Winfrey proprio all'inizio della sua carriera. Mia madre ritaglia tutti gli articoli di giornale che parlano di Beyoncé. Compra tutti i suoi dischi, va a vedere i suoi film, insomma la adora. Pensa che sia la migliore. Praticamente è innamorata di lei. E siccome io ascolto molto mia madre, tendo ad apprezzare quello che piace a lei. E ho iniziato anch'io a conoscere Beyoncé. Ho scoperto che non mi piace solo come cantante e attrice, ma mi piace proprio come persona. Perché anche se ha avuto un enorme successo, non è mai cambiata. È rimasta sempre la stessa, con i suoi valori. Quelli che le hanno trasmessi i suoi genitori, in fondo. Io mi rifaccio molto a lei. È diventata il mio modello. Deve essere stata una notizia grandiosa per Miley sapere che avrebbe cantato con il suo mito. Le viene infatti proposto di partecipare a un bellissimo progetto, il Teleton Stand Up for Cancer Show, un programma realizzato per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro. In occasione di questo importante avvenimento, una lunga lista di artiste partecipa alla realizzazione di un singolo, Just Stand Up, che viene cantato dal vivo per la prima volta proprio durante lo show, il 5 settembre del 2008. Fra le artiste che partecipano all'evento e cantano il pezzo figurano Rihanna, Mariah Carey, Fergie, Leona Lewis e la grande Beyoncé. Per Miley Cyrus è il coronamento del suo sogno. Essere sul palco con il suo mito, colei che ha rappresentato il suo punto di arrivo, un esempio di perseveranza, passione e determinazione da seguire.